musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi. Balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima, più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà, canta insieme a me. Balla. Hey, hey. Come prima, più di prima. Ti darò come prima, più di prima. T'amerò per la mia vita, ti darò. Quando tu verrai.